Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tutti. Franco Piantrini, autore di questo programma, Claudia Schiattoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia e vedo, tra poco arriverà Pardo naturalmente, vedo che già dai primi sms che arrivano di solito almeno una decina prima dell'inizio della trasmissione, la temperatura, nonostante sia il penultimo lunedì di campionato dell'anno, temperatura già elevata, c'è chi dice codice etico, Chiellini a casa, fuori dai mondiali, c'è chi dice grande tributo a capitano Zanetti, non è stato lo stesso trattamento per Maldini e Del Piero mandati via calci in culo, Roby da Gordo scrive questo messaggio. 800 24 00 24 per intervenire. Now I have children. Ovviamente non soltanto su questi temi, perché lì l'avete sentito anche prima nel GR, è stata chiesta la prova TV per la gomitata a Pjanic e mi sembra un provvedimento, una richiesta assolutamente ineccepibile, perché è il classico caso da la prova televisiva, ma non è tanto questo il punto, sono altri punti interessanti del penultimo weekend di campionato dell'anno, prima di tuffarci poi tutti insieme dentro ai mondiali, all'attesa ai mondiali, ai mondiali stessi, e mondialando di qua e mondialando di là. Ebbene, Sassuolo e Chievo timbrano un'impresa, su questo sarete d'accordo. Sassuolo 34 punti in 32 partite, sì, numeri corretti. E bravissimo Di Francesco, che lo ricordiamo, era stato mandato ad ossigenarsi per 5 gare, cioè quelle perse da Malesani, dunque le partite con Di Francesco sono state 32. Corini è stato richiamato invece dopo 12 gare di campionato del Chievo, dopo la stagione scorsa era stata brillantissima per la verità di Corini al Chievo, e ha fatto 25 punti in 27 partite. E con questa salvezza mai così bassa, sono numeri che dicono tutto o quasi. Che sarà, sarà. Ma perché che sarà, sarà? Che sarà, sarà riguarda non solo loro, perché ci stiamo preparando ad un'estate di cause di divorzio. Seedorf, Mazzarri, Conte, tutti e tre, forse, lasceranno le rispettive panchine. Seedorf il matto, Mazzarri il contestato dalla torsida e Conte il dubbioso. Quanto a Seedorf, sono decisioni che passano chiaramente sopra la sua testa, sono quasi più grandi di lui. Detto che forse al Milan conviene evitare l'Europa League dai preliminari, perché si tratta di ricostruire e a luglio potrebbe essere un problema avere quell'impegno europeo non così importante, almeno considerati insomma l'abituale territorio di caccia dei rossoneri. Ieri Seedorf si è preso anche del matto da Galliani. Io leggo i sottotitoli. Gioca Tarab? No, fa giocare Onda. E allora la domanda successiva è perché? E quello che abbiamo capito noi è perché, ma puntini puntini, perché è matto, qualcosa del genere. Se vuole commentare. No. Nessun commento? No, non saprei cosa dire. Io ho appena spiegato, diciamo, la ragione sul commentare su quella che il signor Galliani eventualmente avrebbe detto. Non credo che sia del mio interesse di commentare. Beh, certo, quando ci sono cause di divorzio non è nell'interesse delle parti commentare ed esporsi, perché ogni cosa che dirai potrà essere usata contro di te. Poi c'è Mazzarri, che è stato esonerato, come dicevamo, dalla torsia nerazzurra, ma secondo me lui ha abbastanza ragione nel dire: beh, questo quinto posto è un successo, ma che volete da me con questa squadra, che dovevo fare, vincere lo scudetto? E infine Conte, che è l'argomento più gettonato, più interessante: vorrebbe una squadra nuova e giovane, profondamente rinnovata dopo aver spremuto questa. La Juve invece avrebbe in mente soltanto alcuni ritocchi, magari preziosi, alcune stoffe, pezzi di stoffa pregiata. La mia impressione è che entrambi potrebbero dirsi addio, e in questo caso entrambi potrebbero, pensate un po', avere ragione. Ho parlato anche in questo periodo con tutti, col presidente, col direttore, ho un po' esternato tutti i miei pensieri, sotto tutti i punti di vista. Non è che la società è stata colta impreparata, ecco, dai miei pensieri, con Andrea Agnelli e la sua famiglia, con la proprietà, col direttore Marotta, Paratici, con tutti. Sono stati 3 anni fantastici e straordinari, saremo amici sempre, a prescindere che Antonio alleni ancora l'anno prossimo la Juventus o Antonio scelga altre strade, e si rimarrà sempre grande stima, grande affetto, perché sono stati 3 anni bellissimi, incredibili, e non potrebbe essere altrimenti. Tutti convocati. Questi sono soltanto alcuni dei temi, secondo me, particolarmente interessanti che la giornata, la domenica, il weekend ci hanno lasciato sul tappeto. Poi c'è l'addio di Zanetti, a riprova del fatto che all'Inter sono davvero molto bravi, e non sto scherzando, non sto facendo l'ironia, a organizzare e gestire le feste, perché è stata meravigliosa quella, e dovuta, e doverosa quella di sabato sera a San Siro. Ma poi più tardi parliamo anche del mondo dei motori, lo faremo nella seconda ora, perché come sapete abbiamo 2 ore per stare insieme. Il mondo dei motori, in cui io proporrei un KO tecnico dopo poche gare di stagione, sia per le macchine che per le moto. KO tecnico, inventiamoci qualcosa di nuovo e di diverso, un campionato parallelo, non lo so, un rimescolamento dei mezzi, le macchine sorteggiate, qualcosa ci inventeremo. Ciao Pierluigi Pardo, come stai? Come va? Molto bene, ti sei divertito? Questo weekend? L'altra sera sono stato a San Siro e devo dire che è stata una bella partita. Bella. Con la Lazio, che chi non l'ha vista magari non lo sa, ma la Lazio ha avuto 15-16 palle gol. Sto esagerando, però ne ha avute tante, e quindi è stata una partita più incerta di quello che il risultato racconta. E poi c'è stata questa cosa meravigliosa che ci ha riconciliato, sì, come si dice, perché è stata una piccola celebrazione, sarà molto minimal, ma cioè volutamente molto minimal. Sì, molto elegante, ma, secondo ma me, molto Piero. Bella, molto elegante, molto bella, molto elegante, e lo dicevo prima, senza ironia, l'Inter sono molto bravi comunque a gestire questo tipo di festeggiamenti, che sono. Considera che c'era questa cosa di tutti i dipendenti dell'Inter in campo, no? Che era una cosa bella, secondo me. Sarà molto familiare come festa, sì, e molto emozionante. Poi insomma, Zanetti è uno che l'emozione se la porta dentro, no? diciamo sinceramente, non è dal punto di vista giornalistico il calciatore più accattivante, no, che è sempre uno molto misurato, che difficilmente ha fatto dichiarazioni sopra le righe, quindi magari altri sono più interessanti, però insomma rappresenta dei valori, ecco. Io fossi una compagnia di assicurazioni mi farei fare il testimonial, perché insomma lui è veramente la classica persona alla quale compreresti una macchina usata. Sì, è vero. Senti, poi sull'Inter, poi sull'Inter torniamo anche sul destino di Mazzarri, che insomma è un po' accomunato in questa situazione a Conte e a Seedorf, no? C'è aria di divorzi sulle 3 panchine più prestigiose del calcio italiano. Su Seedorf, vabbè, non ci sono più dubbi. Ieri c'è stata, tra l'altro oggi c'è stata una telefonata di Galliani a Seedorf per stemperare i toni dopo quel matto che fa giocare Onda e non Tarabt. Cioè, a parte che matto non mi sembra un insulto trascendentale, matto può essere, volendo forzare, può essere inteso anche in un'accezione positiva. Non è questo il caso, però tra i due ovviamente non c'è mai stato un buon rapporto, o forse non c'è alcun rapporto. Seedorf se ne andrà. Ieri il Milan, tra l'altro, non meritava neanche di perdere, forse neppure di pareggiare, certamente non ha giocato la sua peggiore partita, però a questo punto i risultati sono pretestuosi nella causa di divorzio che ci attende. Sì, il Milan ieri non è stato fortunato sicuramente, perché può pensare che ha colpito un palo un minuto prima di subire il gol del 2-1, quindi proprio sliding door. Però è anche vero che ha affrontato una partita nella quale doveva sbranare gli avversari, perché aveva tante motivazioni contro una squadra già salva, ampiamente salva, brillantemente tranquilla, e ha avuto un atteggiamento, penso soprattutto al primo tempo, veramente molto negativo, molto passivo, apatico. Quindi insomma, ieri secondo me il bicchiere del Milan è mezzo vuoto, al di là del risultato, la prestazione da bicchiere mezzo vuoto. Seedorf verrà mandato via, diciamo che se avesse conquistato l'Europa League sarebbe stato un pochino più difficile dal punto di vista mediatico e ovviamente della forma mandarlo via. Adesso sarà più facile, ecco, tutto qui, ma la decisione era già stata presa. Ma la decisione è tutto pretestuoso, però io vorrei partire dal tema in cui ho aperto programma, e cioè le imprese di Sassuolo e Chievo e Sassuolo. Del Chievo in area a saltare, esce a vuoto Avramov, colpo di testa di Dainelli per il gol dell'1-0. Il Chievo in questo momento sarebbe in salvo, il gol che fa un campionato. Fischietto le labbra per Doveri. Il Chievo Verona espugna Cagliari, vince 1-0, il gol di Dainelli, il Chievo resta in Serie A. Sai, parlo a me, Eugenio Corini viene da chiamarlo ancora capitano, non mister, non mi sono ancora abituato, pensa un po'. Ciao Eugenio. Buongiorno a voi. Ciao. Scusa se mi scapperà ogni tanto capitano, ma non, ancora non riesco non a preoccupare. Intanto oggi è giorno di festa. Senti Pardo, prima citavo i numeri, per Di Francesco 34 punti in 32 partite, le 5 di Malesani leviamole, tutte sconfitte. Corin richiamato dopo 12 gare l'anno scorso, stagione meravigliosa, 25 punti in 27 partite, mai come in questo caso, numeri dicono forse tutto, dicevo prima. Sì, secondo me, guarda, sono due esempi, nel senso che sono dal punto di vista dell'utenza probabilmente le due squadre non me ne vogliono, in realtà è una medaglia che si sono salvate, ma certamente hanno meno pubblico e una città dietro meno grande rispetto a Bologna, a Catania, a questa Livorno, e hanno fatto cose eccezionali. A me sembra che insomma la forza del tempo sia la normalità. Riportare i Corini a casa è stata una mossa assolutamente vincente, perché conosce benissimo l'ambiente, la mancanza di persone, la normalità di questo ambiente, che può consentire a Chievo di andare avanti ancora lungo in Serie A. Il Sassuolo mi sembra che abbia un bacio anche. Aspetta, che la normalità del nostro collegamento telefonico invece è lontana dall'essere buona, e allora io vado subito col capitano mister Corini. Eugenio, la corsa a salvezza è una battaglia nel fango. Il Chievo ha scelto in qualche modo di partire ad handicap, poi ti ha richiamato. Sì, io penso che oggettivamente quando siamo arrivati io e il mio gruppo di lavoro a metà novembre la situazione era molto delicata, difficile, perché partire ad handicap in Serie A è complicato in un campionato livellato, e secondo me tante squadre hanno lottato per obiettivi diversi, quelli della salvezza. Basta vedere la differenza dall'anno scorso a quest'anno, quante squadre hanno lottato per retrocedere, quest'anno hanno lottato per l'Europa League o probabilmente ci andranno, e l'anno scorso lottavano per non retrocedere. Però l'inizio importante ha dato sicuramente fiducia morale, c'è stato qualche passaggio a vuoto, come era fisiologico che fosse, quando sono mancati dei giocatori, però abbiamo avuto grande equilibrio sempre, grande forza di stare insieme. Abbiamo pensato di poterla chiudere a 5 giornate dalla fine, sembrava una cosa impossibile solo pensarla qualche mese dietro. Abbiamo fallito il match point col Sassuolo, perso una partita incredibile a Genova con la Samp, e lì era normale che ci fosse un contraccolpo, nonostante la sconfitta di Torino. Siamo andati a Cagliari contro una squadra che voleva solo festeggiare davanti al popolo pubblico la salvezza e non aveva niente da perdere. Giocare queste partite è molto molto difficile, i miei ragazzi sono stati straordinari, con grande equilibrio, grande forza, e siamo riusciti a vincere una gara che addirittura ci ha permesso di salvarci con una giornata d'anticipo. Sì. Pierluigi, sei tornato? Sì, sì. Ecco. Volevo capire se rispetto al passato, alle tante salvezze del Chievo, c'è stata una sensazione di maggiore difficoltà, di pericolo. In qualche modo ho già risposto, però insomma vorrei capire che umore c'era nella squadra, appunto, dopo quella clamorosa sconfitta di Genova, perché insomma rispetto ad altre volte sembrava la squadra un po' meno in controllo della situazione. Non so se questa è una cosa che abbiamo avuto soltanto da fuori, mister. Guarda, se tu vai a ripercorrere i 12 campionati di Serie A del Chievo, una volta il Chievo è retrocesso e sì, altre due o tre volte si è salvata all'ultima giornata con grande difficoltà. Questo fa parte un po' della storia di chi lotta per questo grande obiettivo. A volte ci arrivi in maniera più tranquilla, a volte ci arrivi con sofferenza, e già salvarsi per me con una giornata d'anticipo, certo, quando a metà novembre hai 6 punti in 12 partite, hai vinto il derby e di conseguenza è qualcosa di importante. Io capisco che poi si viva il quotidiano, si viva solo quella che è la situazione della partita, della difficoltà. Io invece so qual era la situazione quando siamo arrivati, cosa abbiamo dovuto superare durante l'annata, le nostre difficoltà, però con grande forza, grande equilibrio siamo riusciti a rimanere sempre oltre la linea di sofferenza, anche nei momenti di grande difficoltà, a cavallo di fine gennaio, primi di febbraio, vincendo la partita col Catania ci siamo riportati sopra e lì comunque ci siamo sempre stati. E di conseguenza, quando dico che a 5 giornate dalla fine stavamo compiendo qualcosa di incredibile, che era impensabile a metà novembre, ma come ho ripetuto più volte, questo è stato un campionato per il Chievo che è nato in sofferenza, è finito in sofferenza, e addirittura averlo chiuso con una giornata in anticipo, secondo me, è un grande risultato. Sì, c'è poi anche il discorso di una quota salvezza mai così bassa, che siamo davvero ai minimi storici. Però vorrei che mi spiegasse una cosa, Eugenio. Stiamo imparando, è un discorso che riguarda anche in parte te, per quello che è successo tra la fine dell'anno scorso e la ripresa di questo discorso. Stiamo imparando che ormai nemmeno i risultati sono il primo parametro per valutare la conferma di un allenatore. Perché? Ma non lo so, penso che anche chi vuol fare l'allenatore in un certo modo, l'allenatore è quello che mette la faccia sempre, no? E dunque a volte vuoi anche tu delle certezze e sicurezze, perché poi quando inizia il campionato sei te lì che devi guidare la tua squadra, non hai più scusanti di nessun tipo, e dunque a volte chiedere un minimo di voce in capitolo, in qualche scelta, in qualcosa che nella costruzione della squadra, penso che sia fondamentale, perché poi fondamentalmente l'allenatore è quello che va a lavorare con i giocatori, è quello che cerca di creare la situazione tattica migliore per valorizzarne dal punto di vista tecnico patrimoniale, e con questo portare poi al risultato e all'obiettivo che la società. Da questo punto di vista siete già avanti, cioè quest'anno hai gestito la grande emergenza, quindi la chiamata in preda. No, è già successo l'anno scorso, perché purtroppo poi tanti si dimenticano che quando subentri devi solo gestire situazioni, e di conseguenza non è mai facilissimo. Io penso che l'anno scorso, partendo alla 7ª giornata, abbiamo completato un lavoro importante. Quest'anno lo sapevo che sarebbe stato difficile. Io, nel mio gruppo di lavoro, quando ci siamo confrontati con la società, quando siamo arrivati, la volontà era quella di provarci fino alla fine, perché sembrava veramente qualcosa di incredibile. Poi il calcio, ci siamo conquistati la possibilità di chiudere in anticipo, non ce l'abbiamo fatta, ma l'obiettivo è stato raggiunto, e di per sé penso che per l'ambiente Chievo questo debba sempre essere considerato un grandissimo traguardo. Non c'è dubbio. Perché, come dicevate voi poc'anzi, quando tu stai in Serie A e retrocedono piazze come Bologna, come Catania, come Livorno, vuol dire che il miracolo Chievo continua ad esserci, e questo deve essere un valore che deve essere sempre ben presente. Bravo. A tutte le componenti, compresa la nostra tifoseria. Bravissimo, bravissimo, il miracolo Chievo esiste ancora. Eugenio, ti ringrazio, ma un'ultima cosa, quanto stavi dicendo tu, un allenatore chiede un minimo di certezze per il suo lavoro, eccetera, eccetera, sono parole dedicate anche a Conte, giusto? Cioè valgono anche per lui, possono valere anche per questo discorso? Ma penso che sia chiaro, no? Molto chiaro quello che sta dicendo Conte. Sì, sì, sì, sì. Che è quello che stai dicendo tu. Grazie capitano. No, scusa capitano. Ciao, mister. Grazie Eugenio Corini. borsa, poi torniamo, è Pierluigi, sta lì. Tutti convocati. Ti ha convinto Corini, Pierluigi? Sì, eh? Sì, anche se, cioè, ascoltatori insistono, no, quota salvezza bassa, cioè, ma questa valeva per tutti, cioè, secondo me la quota salvezza bassa è inversamente proporzionale agli elevati punteggi delle prime della classe, forse si può fare un discorso di questo tipo. Piuttosto, prima di Stefano e Alessandro da Cremone e d'Asti rispettivamente 8-0-0-24 0-0-24, ricordo magliette di tutti i convocati per il migliore in campo tra gli ascoltatori, quanto al resto ve lo dico dopo. Roma-Juventus non mi è piaciuto tanto, mi aspettavo, è stata una specie di zuffa per molta parte dell'incontro, mi aspettavo molto di più dalla Roma, si è fatta trascinare probabilmente dalla Juventus sul suo terreno preferito, cioè anche quello della fisicità. Mi pare giusto chiedere la prova televisiva per quella gomitata di Chiellini su Pjanic, cosa che il giudice sportivo ha fatto. Sì, sì, ma questo è abbastanza logico alla luce del precedente, quindi è chiaro, sì. Che è talmente fresco il precedente che se lo ricordano tutti, e quindi credo che finirà così. E sulla partita sono d'accordo, insomma, è chiaro che sono due squadre fantastiche, la Juve ha una forza fisica e una abitudine alla battaglia che la Roma non sempre ha avuto in questa stagione, e chiaramente scendendo su quel piano si va incontro più alle esigenze della Juve che non a quelle della Roma. Poi è stata una partita veramente molto aperta, molto equilibrata, che poteva finire in tutti i modi possibili e della quale alla fine secondo me fregava il giusto a tutti, nel senso che chiaramente vincerla è un'ulteriore soddisfazione. La distanza tra Juve e Roma in classifica adesso è veramente siderale, quindi sì, insomma, sì. È anche ingiusto, diciamo, tecnicamente parlare di lotta a scudetto in questo momento, la distanza. Sì. No, ma proprio per queste ragioni, sai, per la Roma è una partita, certo, importante, ovviamente non per la classifica, ma per il riflesso della classifica nello specchio, sai, così a meno 14 ha perso due volte la Juventus. Insomma, mi aspettavo una Roma, sì, mi aspettavo però una Roma fine, migliore. Sono d'accordo con te, però alla fine sinceramente che cambia, questo lo dicevo anche l'altro giorno, questa era un'amichevole, sì, dal punto di vista, anzi c'è pure una scuola di pensiero a Roma di gente che, per dire la romana, ha rosicato perché la squadra ha fatto così tanti punti che in un campionato normale sarebbero bastati per vincere il campionato e non vince nulla, quindi, e secondo me non c'è nessuna ripercussione di questa partita psicologica sull'anno prossimo, cioè quello che conterà sarà il mercato, saranno le scelte degli allenatori, sarà il tipo di squadra che verrà dimostrata. Semmai, secondo me, questo è un test ulteriore per la forza psicologica della Juve, cioè la Juve ha dimostrato per l'ennesima volta di avere questo carattere di ferro tipico del suo allenatore, di non voler mollare mai nulla, qualcosa che in Italia si è visto sempre, quindi ieri è un'ulteriore medaglia da questo punto di vista, certo, per la Juve. Certamente, certamente sì. Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. A lei, dica. Io volevo sottoporre alla vostra attenzione alcune considerazioni. Una legata al Milan. Non è che magari dietro all'incertezza, in fin dei conti, Seedorf, se è arrivato, qualcuno l'ha scelto e l'ha pigliato. Magari Berlusconi, sicuramente non Gagliani. Ecco, non è che forse dietro questa incertezza, adesso Seedorf ci sta mettendo del suo, però dietro questa incertezza alla sua conferma ci sia l'eventualità che il Milan, passata la tornata delle elezioni europee, che ne so, che la quota della maggioranza del Milan passi al miglior offerente che sarebbe già stato individuato magari da Gagliani. E poi su Conte, sulla Juventus, ecco, secondo me le dichiarazioni di ieri di Conte io proprio non l'ho capito. Conte è un grande allenatore, ha vinto tanto, io poi sono anche juventino, però sì, manca di autocritica, perché la partita con Benfica parla della partita d'andata, non tanto sì, ritorno, sì, con maggiore, siamo tutti d'accordo, con maggiore attenzione punto nei cambi poteva andare diversamente. Siamo tutti d'accordo su questo punto, resta il fatto che ha vinto tre scudetti, quest'anno fa, supera le colonne d'Ercole dei 100 punti, perché non ho dubbi che. Ma probabilmente è un record che non batterà nessuno, ecco, se proprio dovesse andare via, io me intrigherebbe l'opzione Mihajlovic più che Montella. Comunque, tanto di cappello a Conte, spero non Prandelli, perché per me è un perdente di successo sportivamente, dal punto di vista umano tanto di cappello, una grande persona. Attimo, proviamo a capire, prima dei sostituti cominciamo a capire se davvero, e lo scopriremo in settimana, se davvero Conte e la Juventus si stringeranno la mano per dirsi addio. Conte ieri dopo la partita con la Roma. Di tutti, e io come ho detto sono sicuro che nella mia carriera io la vincerò la Champions, l'ho vinta da calciatore, la vincerò da tecnico. Ma l'importante c'è la Champions League. è il sogno di tutti e io, come ho detto, sono sicuro che nella mia carriera io la vincerò la Champions. L'ho vinta da calciatore, la vincerò da tecnico. Se mi chiedi oggi è fattibile vincere con la Juventus la Champions, ti dico no. Da che parte stai, Pier? Io credo che siamo in una situazione facilissima da leggere, è abbastanza naturale. Cioè non è che ci siano chissà quali misteri dietro. Conte è gobbo al midollo, tifoso della Juve, è anima di questa squadra, però dopo 3 anni è abbastanza normale che si faccia delle domande su what's next, certo. Quello che gli può riservare il futuro. E da questo punto di vista è chiaro che la strada, i punti interrogativi sono tanti, perché sì. In Italia meglio di così non può fare. No, chiaro, può continuare a vincere scudetti al limite. Non pensi però... che questo sia il punto? Cioè ogni allenatore che vinca una Coppa del Mondo, che vinca una Coppa dei Campioni, che corona un ciclo, ogni allenatore quando arriva all'apice, probabilmente per questa squadra ciò che è stato fatto è l'apice, a uno viene il pensiero, meglio scendere prima piuttosto che rotolare giù dopo. Sì, io penso che, insomma, io penso, abbiamo detto anche altre volte, che il grande peccato della stagione di Conte sia stata l'Europa. Credo che se fosse andato avanti in Europa League, se avesse vinto l'Europa League, probabilmente avrebbe avuto anche un mercato diverso dal punto di vista europeo. Non è un caso che Jorge Jesus, che è l'allenatore del Benfica, sia ormai dato praticamente certo come nuovo allenatore del Monaco, proprio l'allenatore che lo ha eliminato. Ora non è che fosse non è da una partita che si giudica un allenatore, parafrasando De Gregori, però insomma io penso che alla fine una ribalta internazionale e una medaglia internazionale è l'unica cosa che gli manca, perché poi Conte è bravissimo, ha vinto 3 campionati dominandoli, insomma non è che si può molto discutere la qualità dell'allenatore, dello stratega, del tattico, però insomma è chiaro che finché non ha una legittimazione internazionale di un certo tipo, forse certe panchine sono complicate. Infatti secondo me il problema è proprio quello su cui Conte sta riflettendo, anche quello delle offerte. Io non escludo neanche un sabbatico, dove vado? Un sabbatico, ma non lo escludo, nel senso che poi da quello che ho capito ieri, insomma, o arriva una proposta migliorativa, ma è normale che sia così, insomma, cioè Conte è un, non lo so, è un, scegli tu, che è un conduttore radiofonico come Genta, che per 3 anni fa benissimo, poi aspetta, ma sto scherzando, poi magari gente pensa, stavo solo scherzando, che Genta sia a caccia di proposte, no? Tu non ci lasci, giusto? Io? Come no? Fate l'esempio come volete. Voi siete che, diciamo, un dipendente che ha lavorato per 3 anni benissimo e che al di là degli aumenti che gli si possono dare, dei riconoscimenti a parole e materiali che può ricevere dalla Juve, può avere voglia di cimentarsi, visto che ha dimostrato che è molto bravo, in altre realtà. Non ci trovo niente di perverso, male. Niente di male, esatto, cioè non ci trovo niente di così di pericoloso, di tra l'altro non credo che andrebbe in Italia da nessun'altra parte, un po' perché forse anche perché panchine non ci sono le alternative in Italia, dove va? Cioè in Italia non vedo una soluzione praticabile, a meno di non immaginarsi chissà che cosa, il Milan e l'Inter, però insomma, le panchine sono quelle. Piuttosto all'orizzonte io vedo i messaggi degli ascoltatori, si profila un argomento piuttosto peloso, ma cui è opportuno rispondere tornando. Tu lo sai già, hai già capito, no? Chiellini destro, Prandelli, hai già capito questa storia qua, no? E adesso che fa? Ha chiamato destra, ma chiama Chiellini, il codice etico di qui, il codice etico di là, che è stato secondo me alla fine quasi un modo per complicarsi maledettamente l'esistenza, questo codice etico è un modo per complicarsi una bellissima idea di partenza da parte ma di come Chiellini. Sempre, ma dai, è un uomo illuminato, è un uomo, se qualcuno potrà dire che delle volte ha gli atteggiamenti un po' pretesti, sì. Nel senso, però io valuto complessivamente secondo me è un CT che in questi anni ha approfittato dello spazio, della visibilità e della responsabilità che aveva nella maniera migliore. Certo, e l'ha fatto per sensibilizzare su problemi enormi, quindi proprio non ci sono discussioni. Questa cosa del codice etico è un po' incartato, perché è difficile gestirla ogni volta, perché il rischio delle due pesi e due misure è enorme, perché ci sono delle volte in cui puoi fare un bel gesto di lasciare qualcuno a casa perché tanto magari è la Confederation di cui non te ne frega niente, e altre volte al Mondiale invece non si scherza. E poi ma è sempre così in Italia, le buone idee diventano quasi istantaneamente delle complicazioni, perché poi crei precedenti, perché poi la lotta al razzismo, la chiusura delle curve immediatamente viene distorto tutto quanto a favore dei soliti noti. Vabbè, fermiamoci un attimo perché abbiamo il traffico con Alessandro D'Asti e Antonio D'Aleccio. Attenzione a Pogba, Steiner. Osvaldo, cioè non è possibile. Al 49esimo minuto. Questa è la beffa proprio delle beffe. Questo non ha mai segnato, ha segnato oggi al 49esimo minuto. Tutti convocati. In questi giorni comunque si farà chiarezza, no, sulla mia posizione nell'ambito Juventus. Per quello che riguarda l'anno sabbatico, io a prescindere non sono d'accordo, però dovesse esserci un'unità di intenti e comunque dovessimo in maniera concorde decidere di così di lasciarci in maniera sempre con grande affetto, con grande stima, valuterei offerte intriganti che mi stuzzicano, ecco, stuzzicano. Star fermo che... no, ecco, questo è il senso. No, sinceramente di base non voglio star fermo, poi non dovessero arrivare niente da nessuna parte, allora poi mi godo di più la famiglia. Non dovesse arrivare niente da nessuna parte, che te muovi, dove vai? A parte per inciso, questa sembra proprio evidente, no? Ecco. Cioè, mi sembra come, ma hai ragione tu, è una situazione estremamente chiara da leggere, a differenza di quella di Seedorf è molto chiara da leggere. A proposito, su Seedorf non penso che c'entrino qualcosa presunti acquirenti dietro a questo discorso dell'allenatore, credo che questa sia veramente fantascienza. Alessandro D'Asti, mi intriga di più invece la posizione di Mazzarri, ma tra un attimo ne parliamo. Alessandro, buongiorno. Sono dalla provincia di Torino. Sì. Volevo fare due domande. La prima un po' stupida a Pardo. Come si sente quest'anno sapendo che non intervisterà David Luiz? E io gli darei la vittoria d'onore nella Champions per essere intervistato. Sì. E poi la seconda è su Sassuolo, che ha fatto un'impresa incredibile con un potenziale italiano in attacco. E soprattutto si parla poco di Sansone, che mi piace molto come attaccante. Di Sassuolo, guardi, subito dopo il giro delle 15 parleremo con un ospite. E aggiungo anche stasera, cioè, Floro Flores fra gli altri, con Chiambretti, Chiabotto, Capotondi, Mughini, Auriemma, Avvocato Pisani degli ultra del Napoli, Telese, stasera ne parliamo a Tiki-Taka. No, sul discorso di David Luiz l'ho intervistato dopo Chelsea Atletico Madrid, vabbè, non era la stessa cosa, insomma, questo è evidente. Quell'intervista lì non ci sarà mai più. Guarda, anche l'anno scorso, dopo la finale di Europa League vinta dal Chelsea, l'ho intervistato e non era la stessa cosa, nel senso che quello è un unico che però, insomma, ormai poi nulla si distrugge, no? Io ogni tanto mi riguardo Guzzanti che fa Funari o che fa Rutelli o Benditti, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e quindi voglio dire, c'è YouTube, quel David Luiz lì rimarrà su YouTube, però insomma posso solo confermare la simpatia assoluta per un ragazzo molto molto divertente, molto simpatico, molto disponibile. È brasileiro, d'altra parte è brasileiro. Ma brasileiro. Antonio Lecce. Buongiorno. Allora, io volevo parlare un attimo dell'Inter. Nonostante non sia un estimatore di Mazzarri, credo che non potesse fare più di tanto, anche perché lui ha vissuto una situazione, il passaggio da Monaco a Torino non è stato un passaggio indolore, e oltretutto credo che Moratti in questa situazione, al fine di mantenere i conti, abbia fatto anche degli acquisti che non servivano all'Inter, perché avere un Taider, avere un Campagnaro, roba di quel genere, era come se sarebbe stato più logico mantenere un Duncan, mantenere un Via. Conseguentemente credo non so se sarebbe cambiato poi il mondo, però certo, Antonio, lei dice, io sono d'accordo con lei, non ha mai giocato, Duncan ha giocato nel Livorno, sì, beh, è stato preso Belfodil, vabbè, era un pacco, questo si è capito subito. Icardi, al di là di tutto, secondo me è un ottimo giocatore, può essere funzionale al futuro dell'Inter, però sono dettagli. Certamente questa non era una squadra competitiva per lo scudetto, per quant'altro. Come la vedi tu questa situazione di Mazzarri, Pierluigi? Ma la vedo che Mazzarri rimarrà, secondo me. Rimarrà. Sì, rimarrà, un po' per mancanza di alternative, un po' perché... Al contratto. Ma Toir mi sembra uno pragmatico, mi sembra uno che alla fine si rende conto che la colpa non è solo di Mazzarri, che insomma adesso secondo me prima di trovare un altro allenatore, se vuoi un'altra possibilità gliela concede. Non è entusiasta, su questo non ci sono dubbi, non è secondo me immune agli umori della piazza, l'ha dimostrato anche nella famosa vicenda Guarin, ricorderete, no? Insomma, Toir arrivò e bloccò di fatto il trasferimento con la protesta di piazza, quindi vuol dire che da questo punto di vista è sensibile agli umori. E siccome in questo momento insomma, il vento per Mazzarri è molto negativo, io l'altra sera alla San Siro applausi a tutti i giocatori all'inizio della partita, appunto, fischi a Mazzarri appunto, per questa situazione che la sua questa situazione anche di piazza, di popolo, che la posizione di Mazzarri secondo me potrebbe essere messa in discussione. D'altra parte, come dice sempre il mio amico Pardo, il calcio è materia liquida e io mai mi sarei aspettato nella vita di leggere che un presidente dell'Inter invia questo tipo di sms. Grazie ad Allah siamo in Europa. Sms inviato da Toir, al quotidiano indonesiano Repubblica. Grazie ad Allah siamo in Europa, dixit il presidente dell'Internazionale Football Club. Fra l'altro in Europa, insomma, è eccezionale. Però insomma invece in fondo è bello, perché bello, ognuno sì, ha, certo, ha un suo dio e... Ma sì, ma ci sta, però certo. Sai, presidente dell'Inter, Parisi, grazie ad Allah siamo in Europa, è meraviglioso. Senti Piera, adesso inauguro un angolo che, che per i nostri ascoltatori, andando verso i mondiali, l'argomento delle scommesse diventerà particolarmente interessante, significativo. Noi da oggi inauguriamo una rubrica quotidiana appunto su questo argomento, quello delle scommesse. Ci sentiamo dopo il GR con Pardo, naturalmente. Quote e pronostici. Settimana molto importante dal punto di vista sportivo, quella che comincia oggi. Diamo allora uno sguardo alle quote SNAI relative agli eventi in programma. Partiamo dal Giro d'Italia, che però quest'oggi osserva il suo primo dei 3 giorni di riposo previsti. Corsa Rosa che si trasferirà dall'Irlanda del Nord alla Puglia, e allora può essere questa l'occasione per giocarsi chi vincerà secondo voi la maglia rosa in questo Giro 2014. Favorito è Quintana del team Movistar, quotato 1,80. Joaquim Rodriguez del team Katiusha invece ha pagato 5,50. Occhio alla quota anche di Cadel Evans del team BMC, quotato 6. Tra gli italiani, quota interessante per Domenico Pozzovivo, pagato 20, mentre la quota di Michele Scarponi della Stana è di 40. Altissima la quota degli outsider, con Ivan Basso quotato 150, mentre Franco Pellizzotti è quotato addirittura 200. Questa settimana però si gioca anche la finale di Europa League, con la sfida tra il Siviglia e il Benfica, in programma a Torino mercoledì alle 20:45. Vittoria del Siviglia, cioè l'1, pagata 3,10, l'X è pagato 3,40, favorito invece il Benfica con il 2, la vittoria dei lusitani, pagata 2,25. Sono tantissime le quote che riguardano questa partita, allora il gol è pagato 1,73, il no gol pagato 2, l'under è pagato 1,75, mentre l'over 2,5 è pagato 1,95. Queste erano le quote SNAI di oggi, noi ci sentiamo domani. Tutti convocati. Allora, colpa mia, assemblea sindacale, non ricordavo che insomma non sarebbe andato in onda il GR delle 15, dunque me ne scuso, ne approfitto. Facciamo noi, diamo gli aggiornamenti noi, allora. Vuoi fare il GR un'altra volta? Vuoi farlo? Sì, però leggo a fondo a barcone a sud di Lampedusa, mi è già passata la voglia, sinceramente. Sì. Facciamo così, quando i colleghi finiranno l'assemblea sindacale ci penseranno loro, Va bene, meglio, dai Pier. Allora, intanto ne approfitto per ricordare che ogni giorno al migliore in campo, magliette di tutti i convocati, 800 24 00 24, dunque chiamate, tanto chiamate lo stesso, chiamate in un sacco ogni giorno. C'è poi la possibilità di essere convocati per un giorno, di venire qui, di partecipare a questo programma qui in onda con noi, con me, per Luigi Pardo, e di ottenere, di avere una maglietta griffata ulteriormente, firmata ulteriormente da un grande campione, non so quale, lo scopriremo anche quello vivendo. Dovete inviarci un MP3 della durata di un minuto, trovate tutto sul sito www.radio24.it, il tema della settimana, Conte sì, Conte no, perché? Mi sembra semplice. Senti, facciamoci, compriamo il Bari, io posso metterci sì. 2000 euro. Sì. Ti costa 2 milioni, hai visto? Ti costa 2 milioni, i giocatori dicono comprateci, è un... Ma perché non se lo comprano? Perché non se lo pigliano? Non lo so. Strano. Per abbassare il prezzo, guarda, da 4,3 esce da 3,5 adesso a 2 milioni di euro. Meno di così. È un appartamento di lusso in una città, a Roma o Milano, quindi è una cifra, sì, insomma, perché da Alecceri. Però dobbiamo chiedere lumi a Paparesta. Chiediamo a Paparesta. Bisogna convocarlo per chiedere lumi, come mai. Tra l'altro Bari sta andando benissimo, grandissimo entusiasmo, hai visto? Facciamo, mettiamo poi tutti convocati come sponsor. Dai, grande. Senti, poi ci pensi tu a prendere Cassano? No? Facciamo il botto. Chiaro che a quel punto viene gratis. Viene gratis, perché il grano importa, però chiude la carriera. Cioè. Appunto, quindi allora facciamo così: azionariato popolare di tutti i convocati tra gli ascoltatori. Prendiamo il Bari e Pardo fa arrivare Cassano e spacchiamo. Facciamo un botto clamoroso e poi scappiamo. Dove sta Gaucci adesso? No. Dove sta Gaucci? Dobbiamo scappare? A Santo Domingo andiamo. Perché devi subito declinare? Giussi Farina sta dove? Malavitosi. Però insomma 2 milioni è un prezzo assurdo, Bari ha 20.000 persone, addirittura 30.000 persone che la vanno a vedere. No, ma poi tu ti intendi meglio di me di bacini d'utenza, di queste cose qui. Il Bari è una società comunque che ha un bacino d'utenza rispettabile, quindi è qualcosa di importante. Comunque azionariato popolare, noi siamo pronti. Dai, facciamo. Via da questo momento. Caro figlio, tu dici chi sono i grandi baresi, caro figlio, poi... Caroviglio, Cassano. Ma Cassano te lo potrebbe comprare il Bari? Diglielo, no? Chiamalo. Oh, compriamo il Bari? Azionariato popolare, lui mette la sua quota ovviamente superiore a 2.000 euro e lui mette il resto. Esatto. Non mi sembra una cattiva idea. Massimo da Torino partecipa? Ci sta a comprare il Bari con noi? No, il Bari no, io comprerei il Toro. Il Toro? Non so se lo vendono, soprattutto mi sa che costa qualcosa in più di 2 milioni, soprattutto se va in Europa. Soprattutto quello. Posso dire una cosa, ma Cairo alla fine, dopo tanti anni in cui veniva accolto con molto scetticismo, insomma, forse è arrivato il momento anche, perché se ne parla poco, forse è arrivato anche il momento di riconoscere quello che ha fatto, perché mi sembra, non so, lei che ne pensa? Ma io volevo, dopo tutto il bianco nero, volevo appunto parlare della squadra colorata di Torino e volevo farmi anche molti nemici tra i sostenitori del Toro, perché io penso che Cairo debba vendere sia Cerci che Immobile e costruire una squadra per durare sempre nella parte sinistra della classifica. E visto che ci sono giocatori come Zaza, Berardi o Berghetto, bisogna vendere quelli che abbiamo e prendere dei giovani. Cioè, quindi dovrebbe fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci praticamente? Prenderà dei soldi e dovrà investirli su altri giovani. Sì, ma lei che ne pensa di Cairo? Chiedeva Pardo. Cairo lo ringrazierò sempre perché ha salvato il Toro. I primi anni ha voluto fare un po' troppo da solo, l'uomo che sa fare tutto, e ha pagato di conseguenza tutto quello che doveva pagare. In questo momento si avvale magari di un allenatore molto serio, molto preparato, molto bravo, e dei direttori sportivi anche validi, quindi è riuscito a fare bene dopo tutta questa esperienza negativa soprattutto. Allora, grazie Massimo. Quindi, secondo lui, il Toro dovrebbe vendere la gioielleria, l'argenteria di famiglia e inventarsi degli altri giocatori di questo livello. Berardi da solo in mezzo a tre, punta De Maio, ancora Berardi, si allarga sul sinistro, Berardi, poi la conclusione di Floro Flores, eccolo il poker del Sassuolo, al 44esimo minuto, e 4-2 con il Genoa, il Sassuolo è aritmeticamente salvo, tempo scaduto, il Sassuolo vince, perde il Bologna, si spalancano le porte del paradiso per gli emiliani. Luigi, dopo l'idea, facciamo un'altra cosa, dopo l'idea dell'azionariato popolare per acquistare il Bari lanciato dagli ascoltatori di tutti i convocati, facciamo una convocazione a Tiki Taka in diretta per il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli. senz'altro. A falla, dai. Bandiera, bandiera assoluta. Il signor Francesco, eccolo qua. Il signor Francesco, complimenti. Ciao a tutti. Ciao. Come stai? Sei sempre di Umbertide tu? No, io sì, sono nato lì, ma vivo a Città di Castello ormai da Da quando sono nato. Sì. Sei sempre di Umbertide. Città di Castello è famosa essenzialmente per due persone nel mondo, no? Una è una diciamo un'attrice minore, così sì, poco famosa, che sì, è Monica Bellucci, no? Non tanto carina. Esatto, sì, una qualunque, ecco. Sì, una qualunque, vabbè, la classica ragazza che incontri per strada a Città di Castello, giusto? Sì, esatto, più o meno, sì. Diciamo, sono tutte così le donne a Città di Castello. Ma perché io e te, Pardo, non ci andiamo mai a Città di Castello? Perché non mi porti mai a Città di Castello? No, perché se adesso Francesco dice questa cosa, poi nel prossimo aggiornamento del traffico ci sarà... Sulla E45 si segnalano traffico intenso. Esatto. Traffico intenso sulla E45. Esatto. Senti Francesco, parliamo di quanto avete conquistato ieri. Cioè la salvezza col Sassuolo, prima dicevamo 34 punti in 32 partite, dopo l'interregno e le 5 sconfitte consecutive di Malesani. Come a scuola, no? Cioè quando prendi qualche brutto voto, dici ok, questi qui non li contiamo, contiamo solo i migliori. Beh, avete fatto una grande stagione, tanto che il tuo allenatore sta ricevendo fiori da tutte le parti, allenatore dell'anno. Oggi Lippi ha detto di Francesco: rivelazione per il modo in cui ha salvato il Sassuolo. Sì, penso che si meriti tutto questo, soprattutto perché è stato il primo a crederci dopo il suo ritorno e ha cercato di diffondere questo suo pensiero, e credo che ci sia riuscito nel migliore dei modi. Noi siamo stati bravi e fortunati a seguirlo, a mettersi a disposizione, perché sapevamo che tecnico era, e per fortuna siamo arrivati veramente ad un'impresa, perché di impresa si tratta. Sì, di impresa si tratta, con una squadra che è stata profondamente modificata, Pierluigi, il mercato invernale. Con una squadra che però ha una spina dorsale, di cui Maianelli porta bandiera, con il Sassuolo dalla C2 fino alla permanenza in Serie A, cioè al risultato massimo della sua storia, ha due anime, una giovane, nuova, anche trendy se vogliamo, e l'altra una colonna portante, con un allenatore che ispira questa fusione. Io penso, al di là di tutto, che questa squadra, per il budget che ha, insomma, se non passerà la voglia alla dirigenza, se non verranno compiuti errori madornali, adesso puoi anche toccare ferro o fare anche altre attività, diciamo, più volgari, tanto siamo in radio, per me sono andati in Serie A per tanti anni. In qualche modo l'esempio del Chievo va in questa direzione. Il Chievo ha una società comunque solida come struttura, non ha grandissime pressioni, non ha fatto grandissimi errori, non ha avuto presidenti che ogni 5 giorni cacciano l'allenatore oppure comprano 50 giocatori, ne vendono 47 e si incartano, e si salva da anni, è retrocesso una volta sola. Il Sassuolo mi pare che abbia cominciato benissimo. L'unico momento di turbolenza, secondo me sbagliato, lo dicevo anche a suo tempo, era stata lì la scelta di far fuori Di Francesco. Io non so lui che cosa ne pensa, però mi sembra che lì si sono un po' incartati improvvisamente. Fra l'altro hanno cambiato 12 giocatori e nel momento stesso hanno mandato via l'allenatore. Allora il problema era o i giocatori o l'allenatore, no? Sì, diciamo che sono abbastanza d'accordo, nel senso che probabilmente non gli è stata data quella possibilità poi di gestire quel gruppo di giocatori che probabilmente anche lui aveva scelto, e quindi non ha avuto tempo per farlo. È stata un'annata difficile, con tante vicissitudini, con tanti cambiamenti, tanta inesperienza soprattutto da parte di chi la categoria non l'aveva mai fatta, e sono stati commessi degli errori, come spesso succede, però sono stati rimediati alla grande, come qua Sassuolo si fa da tanto, nel senso con programmazione, con lavoro, con attenzione, e credo che possa essere una grande base per il futuro. Perché avete un grande presidente, devi dirlo questo, Il miglior presidente d'Italia, che secondo me se si impegnasse anche nelle... Ah no, già lo fa a radio. No, volevo dire, lo sai l'inno a memoria, l'inno di NEC? No, mi dispiace, non lo so. Non lo so. Vai Piantanita, però... facci sognare, cercalo, faccelo sentire, vai. Piantanita è scappato, adesso però cerchiamo l'inno di... Nero Verdi, sì, una cosa del genere. Vabbè. Ma Berardi com'è? Ah, Berardi è un talento che spesso si dice un carattere particolare, non lo è, io lo conosco molto bene, a volte lui per per non essere attaccati, capite quante pressioni può avere anche una piazza del genere, un ragazzo di 19 anni, a volte si chiude un po', a volte ha dei modi di proteggersi anche sbagliati, ma sono modi di un 19enne sottoposto a tante comunque, a tante clamore, però è un ragazzo con grande sensibilità, un ragazzo che sente molto tutto questo, non è che se ne sbatte, anzi, però è un ragazzo che ha delle qualità sicuramente fuori dal comune. E Difra? Perché mi sembra che avete iniziato la stagione un po' Allegri dietro, il famoso 0-7 con l'Inter, ma in generale, insomma, mi pare che il primo mese non avevate capito dove stavate bene. Ma secondo me, sì, bravo, è stato proprio l'adattarsi totalmente bene alla categoria, perché poi abbiamo dimostrato che il 4-3-3 può funzionare e abbiamo fatto tanti punti poi alla fine. Era una questione un po' di equilibrio, una questione di atteggiamenti, di sacrificio. È stato interpretato un 4-3 in modo secondo me diverso, meno sbarazzino, con più equilibrio dietro, non rinunciando mai a tre giocatori /4 con propensione offensiva che comunque soffrono tutti, perché davanti stiamo, soprattutto ultimamente stiamo bene, abbiamo giocatori che possono determinare sempre. Allora abbiamo l'inno, eccolo qui. Vai. Nero verdi, nero verdi, i colori di chi non si arrende mai. Nero verdi, siamo forti, siamo noi. Siamo noi, canta gente, canta che. Fa bravo. Se vuoi canta che la proprietà apprezza. Nero verdi. Nero verdi. Sai che apprezza anche? Mentre mi ricordano che anche Mario Capanna è di Città di Castello, per la precisione. Ecco. Sai chi apprezza certamente questo inno? Oltre a Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, oltre a Giorgio Squizzi, nostro presidentissimo, Leo Turrini. Ciao, devo salutare il mio capitano. Ciao Leo, ciao grande. Ieri per noi che insomma apparteniamo a una piccola comunità, sì, no, 40.000 abitanti, è stata anche la giornata di una scoperta archeologica, perché nella Bibbia c'è un'imprecisione. Davide aveva dei parenti a Sassuolo, quello che ha battuto Golia, no? Perché voi non vi rendete conto, c'è un paesino di 40.000 persone, tra l'altro anche insomma molto colpito, toccato dalla crisi economica, la recessione industriale, prima arriva in Serie A, poi riesce a rimanerci, tra l'altro condannando alla retrocessione dei capoluoghi come Bologna, come Catania. Insomma, devo dire che c'è un significato simbolico in quello che Magnanelli e gli altri ragazzi hanno conquistato, e spero che anche il mio amico Pardo, che saluto con affetto, se ne renda conto. Insomma, voi vi occupate giustamente, Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, è giusto, ma insomma ci siamo anche noi. Per quanto riguarda l'inno del nostro amico Neck, io preferisco Bruce Springsteen come genere, ma insomma la felicità per la... Sapete, Pierluigi e Francesco Magnanelli, tra un attimo saluto, no? Voglio solo dirvi questa, che Leo Turrini stava per diventare suocero di Berardi. Insomma, c'era stata un'ipotesi ai tempi della scuola, però sai, io ammiro moltissimo i calciatori, Magnanelli lo sa, ma non li vorrei in famiglia, ecco. Non so perché, questo ve lo devo dire, insomma, tutti bravi ragazzi, per carità, però insomma dedicatevi a altri tipi, lasciatemi stare, ecco. La figliuola, ecco, sì almeno questo. Ciao Pier, buon giornata. Francesco, grazie. Ciao, grazie mille, grazie. Adesso festa Milano col Milan, palcoscenico migliore non poteva esserci. Ma sì, sicuramente dai, arrivare all'ultima e andarsi a giocare col Milan qualcosa di bello, ecco, non la salvezza, perché ti ammetto che pensare di doversi giocare la salvezza a Milano col Milan sarebbe stato veramente difficile. E poi però giocarla così, con leggerezza, con voglia di stupire, andare in uno stadio dove tanti di noi magari non hanno giocato di sera, è un fascino particolare, e ti dico che cercheremo di prepararla al meglio, nel senso con serenità, con divertimento, e cercheremo Comunque vada, vi resterà un primato. In una stagione sola farete fuori due allenatori del Milan contemporaneamente. Cioè, nella stessa stagione, prima Allegri, poi Seedorf. Ciao. Purtroppo. L'anno prossimo, il prossimo allenatore del Milan, quando giocherà a Sassuolo, insomma, dovrà pregare tutta la settimana. Grazie, Francesco. Ciao. Ciao. Leo? Sono qui. Senti, io ho una proposta. Dimmi. C'è il traffico! No, non c'è il traffico. Ogni tanto ti sento e dici adesso il traffico. No, io rimango basito, dico, vabbè, interrompono gente per il traffico. Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tu sei un'emozione come Berardi in maglia nero-verde, vai tutelato, preservato. Senti, va, io vorrei decretare il KO tecnico, si può? Sì, assolutamente. Vuoi farmi parlare di Formula 1? Allora, no, ti voglio solo far notare 5 gare 100 punti Hamilton, meglio della Juventus, ma in 5 gare Beh, allora, diciamo che Hamilton sta facendo, penso, la miglior stagione della sua carriera. Ovviamente ha come in mano un missile. Come penso? Però, no, voglio dire, nel senso che uno potrebbe obiettare, beh, guida la Mercedes, che è una macchina stellare rispetto alla concorrenza, ma sta facendo vedere fino in fondo il suo talento, perché sulle quattro gare che ha disputato, la prima, come sai, si fermò dopo un giro, è sempre riuscito a mettere sotto Rosberg, che non è uno fermo, no? No, certo. Sai, quando fanno il paragone, adesso molto di moda, tra la Mercedes di quest'anno e la mitica McLaren di Senna Prost dell'88 che vinse 15 Gran Premi su 16, si dimenticano di dire però che tra Senna e Prost c'era, al di là del feroce dualismo, anche un sostanziale equilibrio. Qui il nero, devo dire, sta mettendo sotto il biondino con una disinvoltura di fronte alla quale bisogna solamente togliersi il cappello. Sì, sì. No, ma certo, ma c'è questa rivalità, c'è questo duello là davanti, però in fondo corrono solo loro due, gli altri fanno un altro sport. Sì, io decreterei il KO tecnico e distribuiamo le macchine a sorteggio. Secondo me bisognerebbe fare questo. Per il titolo è un campionato monomarca, no? Monomarca. Corrono loro due, eccetera. Da soli. Fanno una corsa loro due da soli. Dopo bisognerebbe dire, quelli sono in una Superlega, no? Un po' come la Juventus, devo dire, della Serie A italiana. Sì. E poi ci sono gli altri che invece, in assenza delle Mercedes, animerebbero anche, devo dire, una stagione finanche equilibrata, con una unica dolorosissima eccezione dipinta di rosso, perché devo dirti, ieri è stato veramente qualche cosa di deprimente. Sai, un anno fa, proprio a Barcellona, fu la Ferrari a doppiare la Mercedes. Sì. Sono passati 12 mesi e ieri abbiamo visto, di fatto, anche Alonso è stato doppiato, è arrivato pochi metri davanti a Raikkonen. Hai sentito cosa ha detto? No? Ha detto queste parole che ti faccio riascoltare. Sicuramente vorresti far sempre meglio, sempre che non sei primo non sei soddisfatto, però era una gara che si vedeva difficile dall'inizio e lo abbiamo confermato con un passo gara troppo lento rispetto ai top. Sicuramente abbiamo visto che quest'anno non è la prima volta che siamo a questi distacchi, eravamo circa un minuto dietro i leader in qualche gara, con qualche safety car anche in primi gran premi, quindi oggi che non c'è stato safety car abbiamo andato sul minuto e mezzo, questo sicuramente è troppo, vogliamo migliorare, come diciamo sempre, al più presto possibile, però dobbiamo fare passi sicuri, non c'è una rivoluzione, non è che possiamo arrivare a Monaco, anche se abbiamo adesso due settimane, parleremo di una nuova Ferrari, di tanti pezzi nuovi, e li porteremo, certo, perché si lavora giorno e notte, gli altri portano qualcosina e cercheremo di recuperare piano piano. Raikkonen era arrabbiato come una pantera, con tutto e tutti, con tutto il mondo, ma adesso che si fa, Leo? Guarda, credo che adesso occorra prendere atto di un fallimento. A me dispiace moltissimo dirti queste cose, perché io, tra l'altro, come dimostra la mia amicizia per Magnanelli, abito a un tiro di schioppo, come dicevano i cronisti sportivi di un tempo, da Maranello medesima. E niente, questa macchina è un flop, il motore, la rivoluzione tecnologica, il turbo, l'ibrido hanno purtroppo dimostrato che la tecnologia Mercedes è di un'altra categoria rispetto a quella italiana, quella ferrarista. Non c'è solo quel problema lì, perché la vettura è instabile, non ha trazione, E la cosa, devo dire, più malinconica di tutte è che tu hai due campioni come Alonso e Raikkonen sulla macchina, li costringi a duellare per un sesto posto quando va bene a un giro da chi sta davanti. Ci sono due titoli che io mi permetto di suggerirti. Uno è Alonso Raikkonen, Cronache di poveri amanti, che era un film una volta negli anni 70, sì. E l'altro è Ferrari Odissea nello spazio. Ma voglio dire, cioè, sabato in qualifica perfino la Lotus di Grosjean è stata davanti ai miei eroi. Allora, no, ma non era colpa di Domenicali? Ah, bravo, ma voglio dire, ditemi quando arriva anche la Force India e magari una Sauber davanti, e poi dopo chiudiamo e cala la tela, come diceva Abra Laurito. Ma no, ma guarda, Domenicali ha pagato una responsabilità che naturalmente non era riconducibile a una sola persona. Io con te l'ho già detto, si sbagliano quelli che fanno pensare alla gente che la Formula 1 è come il calcio, cambi l'allenatore, allora Malesani 5 partite 0 punti, torna di Francesco, ti salvi. Cioè, la Formula 1 è tecnologia, è investimenti, è ricerca, è sviluppo. Potrebbe spiegarti benissimo tutto Barisoni lì nel programma che c'è dopo il tuo, hai capito? Certo. Allora tu ci puoi anche mettere Mattiacci, che certamente è una persona straordinaria, un manager che ha venduto tantissime Ferrari in Cina e negli Stati Uniti, ma non ha la bacchetta magica, non è Harry Potter. Poi ti faccio notare un'altra cosa: Mattiacci è talmente consapevole della difficoltà nella quale si trova a lavorare che, se ci hai fatto caso, non apre mai bocca. Lui è l'unico team manager che non rilascia dichiarazioni, e anche qui andiamo a Hollywood, il silenzio degli innocenti, nel senso che lui poi appena arrivato chiaramente non è che possa avere delle responsabilità. Insomma, qui ripeto, l'anno è perso, bisogna lavorare in funzione 2015. Io mi chiedo però chi progetterà la macchina per il 2015, perché siccome abbiamo appena raccontato che è un progetto fallimentare, insomma, bisogna anche interrogarsi su chi si mette lì poi. Alonso e Raikkonen sono le uniche garanzie che abbiamo nella tristezza, ripeto, di vederli lì. Insomma, è che come non se... sono troppi anni che si pensa con grande anticipo alla stagione successiva. Bravo, hai ragione, caro. Prima ti ho citato Davide a proposito del Sassuolo. Vorrei insistere con la Bibbia, il Vecchio Testamento. Abbiamo avuto 7 anni di vacche grasse, no? A Maranello. I titoli di Schumacher e quello di Kimi del 2007. Siamo al 7° anno di vacche magre, perché l'ultimo titolo appunto del 2007. Speriamo che ci sia un'inversione di tendenza, che arrivi la manna dal cielo, che Mattiacci si riveli un Mosè, non Moser, dato che sei il Giro d'Italia. Questa è una traversata nel deserto. Io francamente però sono scettico, perché siamo indietro proprio a livello di... Lo sono anch'io, tanto che mi viene voglia di consigliare, visto che siamo nel campo della... così, del religioso, del trascendente, un bel viaggio a Lourdes, perché forse è la cosa che offre più garanzie. Ma i pullman li guidano Alonso e Raikkonen. Ma ci si potrebbe spingere anche a medium low, voglio dire, perché qui c'è bisogno non di tanto, no, di un c'è miracolo. Bisogno di tutto, soprattutto esatto. Speriamo una cosa, sai, che la Ferrari trovi la forza di convincere un Ross Brawn, un Adrian Newey, comunque un grande personaggio che abbia la capacità di esercitare una funzione di coordinamento a livello tecnico per il ragionamento che abbiamo appena fatto. Sì, certo. Perché diversamente, guarda, qui rischiamo di essere messi come... Di sconfessare anche sette anni più sette. Leo, ti ringrazio, ti abbraccio. Ma sempre io ringrazio te, non fatti interrompere dal traffico però, fallo per no, me. La borsa abbiamo, mercati borsa, finanziari, allora. Quindi stai attento per i tuoi investimenti. Bene, un abbraccio, ciao, a presto. Leo. Ciao, ciao Turrini. Tutti convocati. Allora, 800240024, numero verde. Adesso torniamo a parlare con gli ascoltatori. Tra l'altro ci sono delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che parla del Milan ovviamente, dicendo: non sono soddisfatto della squadra come tutti i tifosi. La differenza, dice in questa intervista rilasciata a Sport Mediaset, è che io ci metto anche i soldi. Balotelli deve imparare a fare gol, deve fare la prima punta, deve stare più vicino alla porta e segnare. per vincere bisogna fare gol, un giorno voglio incontrarlo e spiegarglielo. Sul futuro di Seedorf niente di nuovo, decideremo a fine stagione, dice Berlusconi. Allora, voglio, prima di Umberto da Parma, c'è un ascoltatore che dice: basta con i gobbi, avete rotto, parlate un po' di due grandi campioni, quali Di Natale e Toni, per il mondiale, altro che Osvaldo e Balotelli, pedate nel eccetera, che vadano a lavorare in fabbrica, eccetera. Insomma, Di Natale e Toni per il mondiale, e poi anche Gigi Riva e Boninsegna e Pierino Prati. Perché, insomma, sono due grandi campioni, non c'è dubbio. Toni soprattutto ha fatto una stagione meravigliosa, ma per favore qualche volta vogliamo guardare avanti, se non altro per provare ad immaginare oltre al presente anche un pochino di futuro, che non è quello di Seedorf naturalmente, ma quello della, di quelli che portano la maglia, che porteranno la maglietta azzurra ai mondiali. Umberto da Parma, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere stato convocato. Grazie a lei. Senta, posso chiederle una cosa? Non è una polemica, no. Sia chiaro, però purtroppo devo evidenziarla, se mi permette. Certo, allora, ieri sera abbiamo visto una gomitata dell'amico Chiellini su Pjanic, l'arbitro non ha fatto neanche una piega, subito dopo ha ammonito Pjanic per un fallo, giustamente. Ma lei ha sentito cosa ha detto Chiellini? Sì, posso farlo risentire anche a chi non l'ha ascoltato? Certo, la ringrazio, prego. Abbiamo l'opportunità di chiudere oltre 100 punti, di chiudere con l'Amplein in casa, abbiamo grandi motivazioni per chiudere in bellezza quest'annata e io credo che rimarrà record per sempre nella storia del calcio italiano, anche visto la prossima e spero veloce riduzione delle squadre da 20 a 18, sarà un record inarrivabile. Allora cosa devo dire? Non so, dica lei, cioè Chiellini dice: io ho solo fatto un blocco, ecco. Non ho fatto niente di male. Ecco, allora io volevo dire questo, no? Non rispetto, non per polemica, però questi benedetti arbitri sono veramente, si occupi delle grandi società, perché noi abbiamo visto per esempio un Lucarelli che non ha fatto niente sull'attaccante del Torino, Immobile, ed è stato cartellino rosso diretto. Un difensore, se non fa quello che ha fatto ieri Lucarelli, cosa deve fare? Non ci ha fatto niente. Allora io dico, quello che è successo a Chiellini, siccome poi siamo sempre le solite, no? Uno dice, ma gli arbitri, ma non ce l'abbiamo con gli arbitri, però vorremmo che il calcio fosse una volta per tutto misurato con un metro uguale per tutti, perché per esempio l'espulsione ieri di Lucarelli ha compromesso notevolmente la qualificazione eventuale del Parma in Europa League, giusto? Lei ha visto difficile capire quanto sia stata decisiva. Io ho visto un grandissimo secondo tempo del Parma, questo. Perfetto, sì. Grazie. No, ho visto anche cronaca. Un grande Torino, due grandi attaccanti, Immobile, non c'è niente da dire, però a bel momento non si può usare il cartellino rosso su un difensore che si comporti in quel modo, perché non ha fatto praticamente niente Lucarelli. Fatto niente, è stato espulso diretto. Sì. Gli errori esistono. Qui c'è qualcosa che non va. No, gli errori esistono. Se poi pensiamo che esistono per alcuni in modo un po' più insistente che per altri, allora facciamo discorsi di altro tipo. Certamente quella di Chiellini è un'azione irregolare. Certamente andava espulso, tra l'altro era già stato ammonito, ma era passibile ovviamente di rosso diretto, e assolutamente fa bene il giudice sportivo a dire: chiedo la prova TV per questa gomitata, perché lei parla giustamente da Parma, però anche a Roma insomma hanno levato destro per diverse partite in quella situazione. E a questo proposito volevo dire, la mia posizione non è cambiata, cioè su quell'episodio di destro io continuo a pensare che sia, tra l'altro, e varrà anche in questo caso, un importante precedente, perché in quella situazione l'arbitro era intervenuto, aveva valutato, ma non vorrei tornare tanto su quel caso. Il discorso è questo di Chiellini, questo è stato evidentemente una svista, è stato evidentemente un errore che non ha pregiudicato nulla in classifica, ma che è lì da vedere con le conseguenze che ci attendiamo, anche collaterali, codice etico nazionale e così via, ma di questo abbiamo detto, ho l'impressione che il codice etico sia diventato un intralcio per il lavoro di Prandelli, che dovrà dribblarlo in questa situazione, sono certo che lo farà. Andrea Livorno, grazie Umberto. Andrea da Livorno, buongiorno. Buongiorno, brevissimo incipit. La storia recente purtroppo ci ha dimostrato che la tua teoria appena espressa non spesso e volentieri non corrispondeva al vero. Quale? Quella Ade, che se pensiamo che lo so, no, ma io ne sono, Andrea, io ne sono perfettamente consapevole, consapevole. Riallacciandomi alla cosa di prima, qualche arbitro è il metro di 90 centimetri quando arbitra le strisciate, non ce l'ha di un metro. Questa però non è recentissima, quella del metro risale ai primi anni 80, no? Sì, quando il fuorigioco di Turone, il presidente Viola che tira fuori il metro, eccetera eccetera. Allora, io sono un tifoso, ahimè e ai noi, del Livorno. Volevo fare una brevissima puntualizzazione su quello che è successo ieri allo stadio, perché c'ero. Allora, premesso che nella Goliardia Toscana è ammesso tutto, quasi il contrario di tutto, se non ci sostende la mamma non siamo contenti. No, mezze mamme in Toscana sono maiale e mezze no. Quindi sì. E a noi va bene tutto. Sì. Chi è che ha lanciato il dardo prima di tutti sono stati i fiorentini, offendendoci Rinaldo, Serie B, e va bene tutto. Che poi però questi, per una... Ora non mi prendete male, non voglio giustificare nessuno, per una battuta goliardica come a Livorno se ne sentono tutti i giorni e migliaia al giorno su un calciatore che Varriale ci venga a fare la morale vedendo come lui ha portato a essere l'attività, le testate giornalistiche e sportive della RAI. No, però Andrea, posso dire una cosa? Il suo intervento è bellissimo, cioè nel senso che ma sto dicendo la verità, sta spiegando con grande pacatezza alcuni concetti che possono essere condivisibili o no, perché lei lo sa, no? Possiamo essere d'accordo oppure no. Io non credo che però la provenienza, la regione possano giustificare davvero qualunque cosa. Io capisco lo spirito goliardico, capisco tutte queste cose, però non possono spiegare tutto. A me personalmente, e glielo dico con la stessa tranquillità che lei usa, il coro su Giuseppe Rossi non è piaciuto, questo posso dirlo? Ma anch'io non sono stato completamente d'accordo, però non mi sembra il caso di farci un'intervista basata solo su quello all'allenatore Nicola. Questo personalmente, se no, ci sono anche delle esagerazioni. Basta, parla di cosa è successo a Roma, vogliono sdrammatizzare, sì. E di là invece buttano la benzina sul fuoco. Sì. Fuoco può servire anche per altre cose, soprattutto il Rai. Vabbè, adesso un faccia livornese a tutti i osti, faccia bravo Andrea. Guardi, io sono d'accordo con lei su quanto dice. Poi se ad entrambi non è piaciuto, bene, a me non è piaciuto. Poi se vogliamo dire non ci è piaciuto, lo diciamo, lo stigmatizziamo, possiamo anche sottolinearlo. Secondo me è finita lì, non è il caso di montarci un caso nazionale. Su questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda, anche se io non sono di Livorno. Spero, in bocca al lupo per l'anno prossimo. Vediamo sul chiacchierato se la ritorno Spinelli, poi va bene tutto. Grazie Andrea. Arrivederci. Grazie. Alessio Roma. Sì, ciao. Ciao. Io volevo intervenire sull'argomento Chiellini. Sì. Perché tu mi sembri un po' di parte, vagamente. Da che parte? Destro è stato ammonito per un fallo veniale, cioè veramente per nulla. Chiellini è stato ammonito dopo tre entratacce e perché tu dica che quello è uno schema non è una giustificazione. Ma chi l'ha detto? Alessio, piano un attimo, stavi ascoltando un'altra radio. Io ho detto tutto il contrario, io stavo parlando di Destro, ma non dell'episodio di ieri, ovviamente di quello di Cagliari. E sto dicendo della partita di ieri. Destro è stato ammonito per un fallo veniale, sì. Inesistente. E Chiellini andava il fallo di Chiellini era passibile di rosso diretto e delle giornate di squalifica che certamente arriveranno, come è giusto, no? Ma io non ne sono così convinto, perché la dimostrazione è che c'è una disparità di trattamento su questo giocatore in particolare, perché lui si comporta regolarmente così, è fallosissimo. Ci sono testimonianze visive di fotografie di quello che ha fatto e non è mai stato sanzionato a dovere. Non è mai stato sanzionato a dovere, non lo so, certamente ieri ha giocato in maniera molto dura, ha fatto un fallo su Totti per cui Totti si è arrabbiato non poco, ha fatto un e ha preso ammonizione, poi ha fatto quello in area che lui ha detto era un blocco, l'ha detto Chiellini, non l'ho detto io invece contesto, non era un blocco, era una gomitata ben presa, cioè nel senso che ha visto dove andava, ha allargato il gomito e lo ha affondato, e ha affondato il gomito stesso. Poi tu dici non disparità di trattamento, adesso lo vediamo, perché proprio sulla scorta di un caso destro che è sotto gli occhi di tutti e che fa giurisprudenza, adesso vediamo come il giudice sportivo che ha acquisito la prova TV tratterà Chiellini. Questo è ciò che dico, non so se poi sono di parte oppure no, non mi pare. Strade. Tutti convocati. L'ultima con Pjanic. No, perché è stato un episodio valutato, è stato un blocco di basket per uno schema che ci sono spesso, non c'è cattiveria. E, insomma, è stata una partita sicuramente maschera perché ci tenevamo entrambi a vincerla. Sì, maschia va bene a Carochiello, ma le gomitate, la gomitata non era un semplice blocco, e io credo che arriveranno delle conseguenze. Poi ci sono molti ascoltatori che insistono sul fatto, ma con il codice etico, visto che Destro non ha portato quella volta, adesso Chiellini non lo porta stavolta. Io credo che Chiellini certamente andrà ai mondiali, credo che il codice etico verrà in qualche modo eluso, aggirato. Torno a ripetere, questo codice etico nato con una eccellente, da un'eccellente idea di Prandelli, poi è diventato una sorta di boomerang perché è di difficile gestione, perché è ovvio che alla vigilia di un mondiale che lì ne ha fatto un brutto fallo verrà squalificato, verranno presi dei provvedimenti, ma certamente andrà in mondiale, non è che sta a casa il difensore titolare della nostra nazionale perché c'è il codice etico che non lo consente. Dunque credo si andrà in questa direzione. Ovviamente il giudice sportivo sarà chiamato a muoversi, a pattinare su un terreno estremamente scivoloso, dato che c'è questo precedente del caso destro che ovviamente verrà monitorato con attenzione, quindi la squalifica di Chiellini verrà parametrata a quanto è stato fatto con destro. Vedremo quanto gli darà, ovviamente non avrà rilevanza sull'esito di questo campionato e così via. Adesso abbiamo ancora pochissimi minuti, volevo vedere di riuscire a collegarmi con il Giro d'Italia che oggi è fermo perché è giorno di riposo, giorno di trasferimento, si passa dall'Irlanda a Bari, viaggio non da poco. C'è poi anche questa storia di cronaca, peraltro, di cui i GR si stanno ampiamente occupando, della bomba che è stata trovata nei pressi di uno degli alberghi del Giro. Insomma, mi auguro che sia e rimanga un episodio isolato. Intanto vi ricordo, visto che la vostra compagnia mi fa sempre un enorme piacere, che vogliamo convocarvi per un giorno. Quindi sito di www.radio24.it, convocati per un giorno, inviateci un file mp3, durata massima non superiore al minuto. Il tema della settimana, Conte sì, Conte no, rimarrà, non rimarrà, perché sì, perché no, e al migliore di voi ovviamente vi invito qui con me nello studio di tutti convocati e una maglietta griffata e firmata da un grande campione. Questo è il piano partita. Allora vediamo se riusciamo a collegarci al Giro d'Italia. Non ce la facciamo a collegarci con il Giro d'Italia. C'è Kittel sul vincitore delle ultime due tappe, sentiamo cosa ha detto. To be honest, at the one kilometer sign I thought, okay, this is going to be actually a miracle if I can still go for the win, because I was really far in the back and the only thing I really thought I have to do now is not to give up, and then I could follow Bohani, and Bohani closed some gaps, he came further in the front, and from there on I thought, when I saw the finish line, I have to use the chance now, and maybe it works, maybe it doesn't, and I'm super happy that it was still enough. Questo era Kit, il vincitore delle ultime due tappe. Facciamo due chiacchiere al volo anche con Pier Augusto Staggi, che sta seguendo per noi il Giro d'Italia. Ciao Pier. Ciao ciao Carlo. Allora, viaggio compiuto, sei già a Bari, c'è questo giallo dell'autobomba trovata nei pressi di uno degli alberghi del Giro, com'è la storia? La storia è così, siamo venuti a conoscenza anche noi di questo episodio dai giornali irlandesi che l'hanno scritto proprio questa mattina. Grazie a una soffiata la polizia irlandese è riuscito sia a trovare la bomba e a disinnescarla, che era custodita appunto dentro un barilotto di birra, sia anche arrestare il presunto attentatore, e quindi diciamo scampato pericolo. Sicuro, no, non si conosce ancora la matrice. Onestamente siamo rimasti un po' basiti tutti e adesso ci si ride, però c'era poco da ridere, nel senso che se fosse successo qualcosa, veramente, come hanno detto la polizia e come hanno scritto i giornali irlandesi questa mattina, potevano fare veramente una strage. Certamente, certamente. Quindi sarebbe... meglio non pensarci. Per il resto invece siamo arrivati in Italia, il Giro d'Italia è arrivato in Italia, organizzazione perfetta, due voli charter hanno riportato i corridori sul suolo italiano dopo una grandissima festa irlandese. Credetemi, non è retorica, ma no, ma l'abbiamo vista, l'abbiamo vista dalla, posso dalla dire TV. Un bagno di folla, ne riunisco, sì. Il bagno in quanto pioggia, tantissimo, sì, sì. Tanto freddo, ma calore e anche tanta passione per un Giro d'Italia, una corsa, ognuno di loro, anche la persona, sì, più distante, no, abbiamo visto, si sentiva il dovere di mettere qualcosa di rosa per celebrare. Abbiamo visto, è stato davvero incredibile, l'abbiamo detto tante volte, ma in questa situazione è stato particolarmente evidente. Grazie per Augusto, ci sentiamo dopo, dopo Giro del 18, certo. Grazie. Prima di chiudere, vincitore della maglietta di tutti i convocati di oggi, Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. A lei, dica. Io volevo sottoporre alla vostra attenzione alcune considerazioni. Una legata al Milan. Non è che magari dietro all'incertezza, in fin dei conti Sidorf se è arrivato qualcuno l'ha scelto e l'ha pigliato. Magari Berlusconi, sicuramente non Gagliani. Ecco, non è che forse dietro questa incertezza, adesso Sidorf ci sta mettendo del suo, però dietro questa incertezza alla sua conferma ci sia l'eventualità che il Milan, passata la tornata delle elezioni europee, che ne so, che la quota della maggioranza del Milan passi al miglior offerente che sarebbe già stato individuato magari da Gagliani. E poi su Conte, sulla Juventus, ecco, secondo me le dichiarazioni di ieri di Conte io proprio non l'ho capito. Conte è un grande allenatore, ha vinto tanto, io poi sono anche juventino, però sì, manca di autocritica, perché la partita con Benfica parla della partita d'andata, non tanto al ritorno, sì, con, sì, con maggiore attenzione nei cambi poteva andare diversamente. Ci fermiamo qui, Franco Pentemino, autore di questo programma, Claudio Schiattone in regia, Roberto Scaltri in redazione, Roberto Scaltri in regia, domani alle 14 di nuovo tutti convocati.